Questa sera, ahimè, ci sentiamo soli, l'Oliva non è con noi. Gli ascoltatori affezionati ricorderanno che tutti gli anni, più o meno in questo periodo, Carlo amava mettersi in viaggio. Questa volta, al posto dei soliti luoghi esotici, ha scelto come destinazione una struttura ospedaliera e il nostro cuore è triste. Ci auguriamo, non senza una certa commozione, che questo viaggio duri un po' meno degli altri, che torni presto, un po' arrabbiato mi immagino e un po' disincantato, come uno che per una volta sia finito sotto le grinfie di un'agenzia di viaggi senza scrupoli. Che torni presto perché nemico come sono dell'ideologia turistica, il mio cuore è particolarmente triste. Radio Popolare presenta...